versami un altro bicchiere, barista fa il tuo mestiere, ti prego non giudicare, non serve la tua morale, non mi guardare come se fossi matto, te lo metto negli occhi, la tua pena non serve. Va bene, cercate di farvela un po' più young, un po' più alternative, insomma. Ora che ore che ho rotti coglioni. Vedi, dai, facciamo una veloce che voglio andare a mangiare il gelato.